La storia e la memoria di Dino Pesole. La recente decisione della Corte Costituzionale tedesca, che ha rinviato alla Corte di Giustizia di Lussemburgo il giudizio sulla legittimità del programma di acquisto dei titoli di Stato dei paesi a rischio, ha riacceso il dibattito sul ruolo della Banca Centrale Europea, ma anche sulla politica economica e dunque sul ruolo dei governi, nel complesso e faticoso processo di integrazione europea. Temi di grandissimo rilievo a pochi mesi dall'appuntamento con le elezioni del Parlamento Europeo. Ne parliamo oggi con Massimo Palumbo, economista, lavora a Bruxelles come funzionario della Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, autore del libro Dipinta di Blu, brevi note sull'Europa presente, pubblicato da Pendragon. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Vorrei prima di tutto che ascoltassimo insieme un passaggio dell'intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alla seduta solenne del Parlamento Europeo di Strasburgo lo scorso 4 febbraio. La missione nuova ed esaltante dell'Europa Unita è quella di far vivere nel flusso di una globalizzazione che potrebbe sommergerci come nazioni europee la nostra identità storica, il nostro inconfondibile retaggio culturale, il nostro esempio e modello di integrazione sovranazionale, di comunità di diritto, di economia sociale e di mercato. Perché questa missione sia condivisa dai popoli della nostra Unione e possa essere portata avanti con successo, occorre però una più forte coesione politica europea, una più convinta e determinata leadership politica europea. 30 anni fa, esattamente 30 anni fa, qui a Strasburgo, lasciate che lo ricordi, Altiero Spinelli riuscì a far esprimere al Parlamento europeo questa capacità di leadership con il progetto di trattato che porta il suo nome. L'occasione non fu allora accolta, ma la sua ispirazione costituzionale ha continuato a vivere e a contare, anche perché la sua idea di Europa federale non aveva nulla a che fare con lo spauracchio agitato da varie parti di un superstato centralizzato. Molta strada dal 1984 ad oggi è stata dunque fatta, ma restano da vincere ancora dure battaglie politiche, se non contro possibili ritorni di nazionalismi aggressivi, certamente contro persistenti egoismi e meschinità nazionali, contro ristrettezze di vedute, calcoli di convenienza e conservatorismi anacronistici quotidianamente riscontrabili nelle classi dirigenti nazionali. La tesi di fondo del libro di Massimo Palumbo è sostanzialmente questa. Nell'Unione Europea a essere debole non è l'euro, ma quello che gli sta attorno. Organismi e strutture concepite a Maastricht più di 20 anni fa, in un'epoca che precede il grande boom della finanza mondiale e il suo tremendo potenziale speculativo. Solo un'Europa sensata, ovvero giusta, coesa, pluralista, può contribuire a creare una sana coscienza europea, che dia senso all'Europa, una chiara direzione di marcia. Soltanto allora la bandiera europea diventerà qualcosa di familiare e al tempo stesso l'emblema di uno spazio leggero, dove tutti potremo volare senza paura. Spetta soprattutto ai partiti e ai movimenti nazionali ed europei alimentare spazi pubblici di azione politica per rilanciare in modo intelligente il progetto di integrazione europea. Si deve immaginare una sorta di riflessione e mobilitazione permanente, un sostegno dal basso nel processo verso gli Stati Uniti d'Europa. Ecco Massimo Palumbo, riflessione e mobilitazione. In sostanza la sua tesi è che per superare la crisi dell'Europa c'è bisogno di più Europa. Esattamente, sì, c'è bisogno di più Europa, ma senza cadere ancora nei temi della retorica a tutti i costi pro-Europa, ma portando argomenti, argomentazioni e tenendo conto anche di quelle che possono essere le paure o gli spauracchi, come ha detto poco fa il Presidente Napolitano, a proposito di questo superstato europeo che dovrebbe cancellare l'identità, il che non è affatto vero. Ecco, ma per avere più coesione politica, più coesione istituzionale, quali sono i passaggi fondamentali necessari? Perché se ne discute da tempo, ma non si riesce a trovare, come dire, il mandorlo della matassa. È proprio perché secondo me noi ci troviamo in un circolo vizioso nel quale non esiste un modo di partecipazione della gente e attraverso anche i partiti che valichi i confini nazionali, e questo condiziona poi le scelte di chi è rappresentante dei popoli a livello europeo, che sono rappresentanti sì, ma soprattutto rappresentanti dei propri popoli nazionali. E il Parlamento europeo, che è l'istituzione che rappresenta tutti i cittadini europei, non ha da solo la forza di controbilanciare questa preponderanza intergovernativa che adesso prevale. In proposito delle prossime elezioni europee, appunto, c'è il rischio che emergano prepotentemente sentimenti anti-europei e anti-euro, peraltro già evidenziatisi anche nel corso dell'audizione dell'intervento solenne del presidente Napolitano a Strasburgo. Ecco, allora, per far fronte a questi rischi, in una fase di perdurante recessione economica, quali sono a suo avviso le misure che l'Europa tutta dovrebbe intraprendere già nel prossimo futuro, direi, nelle prossime settimane? Qui il discorso è doppio, direi. Da un lato è chiaro che uno dei motivi di scontento verso l'Europa è la crisi economica e la disoccupazione. Quindi se i governi nazionali e le decisioni che vengono prese a livello europeo porteranno a maggiore rilancio delle politiche per lo sviluppo e per l'occupazione, questo già risolverà metà dei problemi. L'altra metà risiede evidentemente nella difficoltà di far emergere quello che di buono fa l'Europa, e questo è un compito soprattutto dei partiti politici, che devono non ignorare le critiche all'Europa, anzi devono affrontare i temi difficili e presentare un progetto di Europa che sia al tempo stesso accettabile ma anche che abbia una sua credibilità. In tale contesto, tenendo conto che peraltro con la nuova Costituzione europea il Parlamento europeo ha assunto nuovi e più importanti compiti, ma ritiene che comunque in questo processo di riformulazione degli equilibri istituzionali in Europa anche il Parlamento europeo debba poter contare di più? Sì, il Parlamento europeo, bisogna ricordarlo agli ascoltatori, negli ultimi 20 anni ha aumentato notevolmente i suoi poteri, adesso legifera sul 95% delle materie di competenza europee insieme al Consiglio europeo. Però è chiaro che quello che è importante è anche il ruolo politico che il Parlamento europeo deve avere, e la capacità quindi di visione, come è stato ricordato prima quando fu approvato il famoso progetto di costituzione, questa visione che deve andare oltre la situazione immediata e dare una visione, una prospettiva di sviluppo, non di integrazione europea soltanto per l'integrazione europea, ma proprio come una risposta anche alle sfide e alle difficoltà che le persone hanno e riscontrano in questo momento. Soltanto con una visione a lungo termine si possono trovare le soluzioni migliori. In questo contesto, almeno per quel che ci riguarda come Italia, non sarebbe opportuno che si aprisse anche una riflessione su maggiori, se vogliamo, margini di flessibilità per politiche dirette alla crescita e quindi allo sviluppo, anche rispolverando magari la vecchia idea della Golden Rule? La Golden Rule è sicuramente un'ottima idea se la flessibilità per maggiore spesa pubblica è utilizzata dagli Stati membri per investire in ricerca e sviluppo. Altrimenti sarebbe uno spreco, evidentemente. Quindi io sottolineo l'importanza di una marginalità, di una flessibilità virtuosa. L'Italia è su questa linea da tempo, occorrerebbe trovare alleati in altri Stati membri per portare avanti questa tesi e farla approvare a livello europeo. Sarebbe un'ottima risorsa in più per uscire dalla crisi e quindi rilanciare anche poi l'integrazione europea, evidentemente. Bene, grazie a Massimo Palumbo, buona serata e grazie ancora per questo approfondimento. Buonasera a voi, grazie.